Vangelo di San Luca, capitolo sesto. Ora avvenne che, in un giorno di sabato, egli passava per i seminati, e i suoi discepoli svellavano delle spighe e, sfregandole con le mani, mangiavano. Ed alcuni dei farisei dissero, «Perché fate quel che non è lecito nel giorno del sabato?» E Gesù rispondendo disse loro, «Non avete letto neppure quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione, ne mangiò e ne diede anche a coloro che erano con lui, quantunque non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro, «Il figliuolo dell'uomo è signore del sabato». Ora avvenne in un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. E qui vi era un uomo che aveva la mano destra secca. Or gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se facesse una guarigione in giorno di sabato, per trovare di che cosa accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano secca, «Levati e sta su nel mezzo». Ed egli alzato si stette su. Poi Gesù disse loro, «Io domando a voi, è lecito in giorno di sabato di fare del bene o di fare del male? Di salvare una persona o di ucciderla?» E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo, «Stendi la mano». Egli fece così e la sua mano tornò sanata. Ed essi furono ripieni di furore e discorrean fra di loro di quel che potrebbero fare a Gesù. Ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne elesse 12, ai quali dette anche il nome di apostoli: Simone, che nominò anche Pietro, Andrea, fratello di lui, Giacomo e Giovanni, e Filippo e Bartolomeo, e Matteo e Toma, e Giacomo d'Alfeo e Simone chiamato Zelota, e Giuda di Giacomo e Giuda Iscariot, che divenne poi traditore. E sceso con loro, si fermò sopra un ripiano insieme con gran folla dei suoi discepoli e gran quantità di popolo da tutta Giudea e da Gerusalemme e dalla marina di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro infermità. E quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti, e tutta la moltitudine cercava di toccarlo, perché usciva da lui una virtù che sanava tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva, «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro! Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini v'avranno odiati, e quando v'avranno sbanditi fra loro, e v'avranno vituperati, ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio, per cagione del figliuolo dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno, e saltate di letizia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, poiché i padri loro fecero lo stesso ai profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che siete ora satolli, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso coi falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che v'odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che v'oltraggiano, a chi ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prendere anche la tunica, da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. E se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene? Poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figliuoli dell'Altissimo, poiché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Poi disse loro anche una parabola. Un cieco, può egli guidare un cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? Un discepolo non è da più del maestro? Ma ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro. Or, perché tu guardi il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo proprio? Come puoi dire al tuo fratello, «Fratello, lascia che io ti tragga il bruscolo che è nell'occhio tuo, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?» Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello. Non v'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né v'è albero cattivo che faccia frutto buono, poiché ogni albero si riconosce dal proprio frutto, perché non si colgon fichi dalle spine, né si vendemmia uva dal pruno. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, reca fuori il bene. E l'uomo malvagio dal malvagio tesoro reca fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico? Chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la ruina di quella casa è stata grande.